Clara e lo schiaccianoci. Era la vigilia di Natale e Clara e Franz aspettavano l'arrivo del loro padrino, lo zio Gianni. Lo zio ogni anno veniva a consegnar loro personalmente i suoi regali. Erano sempre dei regali molto particolari perché lo zio Gianni era un fabbricante di giocattoli. Forse, se chiudiamo gli occhi e ci concentriamo forte, forte, arriverà subito, disse Clara. Non fare la stupida, l'ammonì Franz. Ma proviamoci almeno, insisté Clara. Chiusero gli occhi entrambi e si concentrarono. Proprio in quel momento il campanello della porta suonò. Ha funzionato! Esclamò Clara. E infatti lo zio Gianni entrò sorridendo e scuotendosi la neve dal cappotto. Bene, bene, bene. Eccovi qui. Bellissima barchetta di legno dalle vele rosse, brillanti. E dentro a quello di Clara c'era un pupazzo con le lunghe gambe dipinte come se fosse un soldato. Cos'è? Chiese Clara. È un pupazzo schiaccianoci. Guarda, rispose lo zio Gianni. Prese una noce da un vassoio sul tavolo. La mise in bocca al pupazzo, gli strinse le gambe insieme ed ecco, il guscio della noce si aprì in due metà. Lo zio Gianni infilò la noce nella bocca di Clara che saltava su e giù dalla gioia. Oh, com'è bello, zio Gianni! Non avevo mai visto un pupazzo schiaccianoci! Si mise a ballare tutto intorno alla stanza reggendo alto il nuovo pupazzo sopra la testa. Franz era rimasto ad osservarla tutto il tempo senza dire niente. All'improvviso si slanciò attraverso la stanza, afferrò il pupazzo, lo gettò per terra e ci saltò sopra. Clara scoppiò in lacrime. Oh no! Il mio povero pupazzo! Lo zio Gianni avanzò minaccioso, prese Franz per un braccio e lo portò fuori dalla stanza. Clara udì come lo zio Gianni sgridava Franz. E intanto raccolse il pupazzo e, guardandolo attentamente, gli sorrise fra le lacrime. «Meno male, non ti sei rotto dopo tutto», sussurrò. Si accoccolò sul sofà con il pupazzo fra le braccia e si addormentò. Clara si svegliò in mezzo alla notte e si trovò nel proprio letto. «Mi devono aver portata su, addormentata». «Ma dov'è il mio schiaccianoci? Oh, è caduto per terra, poverino!» Silenziosa come un topolino, Clara si infilò le pantofole e scese le scale. Mentre apriva la porta della sala, la pendola suonò la mezzanotte. Spaventata, volò attraverso la stanza, si buttò sul sofà e si rannicchiò tutta nella sua camicina da notte. Il fuoco che languiva nel caminetto illuminava la stanza. Uno scalpiccio si udì improvvisamente e lunghe file di topi arrivarono a passo di marcia, guidati dal loro re che aveva occhi brillanti e feroci. Gli occhi di Clara, invece, erano sempre più sbarrati, mentre dall'altro lato della sala entrarono marciando colonne e colonne di soldati. Erano i soldatini di piombo di Franz e alla loro testa c'era il pupazzo schiaccianoci. I topi e i soldatini di piombo cominciarono a combattere. In breve, il re dei topi aveva sospinto lo schiaccianoci proprio contro il sofà dove Clara stava seduta. «Ora basta!» gridò Clara e, toltasi una pantofola, la gettò addosso al re dei topi. Stordito, quello cadde per terra. Allora lo schiaccianoci prese il sopravvento e lo colpì sulla testa. I topi in grande confusione scapparono portandosi via il loro re caduto. Clara stava per rialzare il suo schiaccianoci quando, veloce come un lampo, quello cominciò a crescere e a crescere davanti ai suoi occhi. Non era più un pupazzo, ma un bel giovane che prese la pantofola di Clara dal pavimento, la baciò e gliela rese. «Mi hai salvato la vita, non lo dimenticherò», disse sorridendo. «Ma chi sei?» balbettò Clara. «Sono il principe Schiaccianoci. Vuoi venire nel mio regno? È il regno dei dolci. E nessun essere umano lo ha mai visto prima d'oggi». «Oh sì, sì, ti prego! Come ci si arriva?» Aveva appena finito di parlare che apparve una barca. Clara e il principe salirono a bordo e scivolarono via nella notte invernale. Fiocchi di neve turbinavano e danzavano intorno a loro, ma Clara aveva caldo, come se fosse avvolta in un piumino. Finalmente arrivarono al palazzo del principe Schiaccianoci. Clara lo osservava come in trance. Era fatto di glassa di zucchero bianco, con torri di glassa rosa, colonne di zucchero d'orzo e candelieri scintillanti di gocce di sciroppo di pere. Una dama bella e delicata le dette il benvenuto come se fosse una principessa. Io sono la fata Prugna Candita e sono incaricata di mostrarti tutte le cornie del palazzo. Vieni con me, disse il principe, la condusse nel salone da ballo e la fece accomodare su un trono di menta decorato di confetti d'argento. Ma cosa succederà ora? Tutti i tuoi dolci preferiti danzeranno per te, disse il principe. Sorrise, si portò un dito alle labbra per suggerire silenzio e la musica inondò il salone. Il cuore di Clara batteva furiosamente quando due ballerini saltarono in mezzo alla sala. Erano vestiti con sontuosi abiti di velluto marrone e Clara li osservava incantata ballare e frullare di qua e di là. «Sono sicuro i cioccolatini, i miei preferiti!» sussurrò al principe. Poi arrivarono 12 bambini che saltavano e facevano capriole, vestiti di un brillante color arancio e giallo. «Gelati di arancio e limone!» disse Clara applaudendo e ridendo. «Mi piacciono da morire!» Poi arrivarono due uomini magri e alti, vestiti di nero dalla testa ai piedi, che ballonzolarono davanti a lei in modo proprio comico. «Non c'è dubbio!» «Sono liquirizie! Piacciono tantissimo a Franz!» Dopo lo spettacolo, il principe la prese per mano e la condusse in mezzo al salone da ballo. Turbinarono insieme così velocemente che le gocce di sciroppo dai candelieri, il trono di menta e i muri di glassa si fusero in un'unica macchia luminosa. «Ed ora la sorpresa più bella!» annunciò il principe e ricondusse Clara verso il trono di menta. La fata Prugna Candita fece il suo ingresso in sala, seguita da una musichetta tintinnante. Ballava instancabilmente come un cristallo di neve portato dal vento e Clara non poteva distogliere gli occhi da lei. «È possibile che sia vera?» si chiese e così dicendo abbassò gli occhi e vide che aveva fra le braccia il pupazzo Schiaccianoci. Si strofinò gli occhi, si sedette e si guardò attorno. Era di nuovo nel suo letto e il principe, la sala da ballo, la fata Prugna Candita erano spariti. «Che strano!» pensò Clara coricandosi di nuovo con lo Schiaccianoci fra le braccia. «Chissà se vedrò mai più il regno dei dolci!» E si addormentò profondamente. Thank you.